Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Un saluto a tutti voi. Dunque, ben ritrovati. Parliamo di voi e parliamo di noi oggi nella nostra trasmissione. Voi perché si indicano sempre come diversi, come lontani, quelli che oggi si imbarcano su delle navi, sarebbe bello fossero così, su dei gommoni, su delle imbarcazioni a grandissimo rischio per cercare il Bengodi in Italia, sottolineano i più maligni, o semplicemente per il diritto a sopravvivere, come vorrebbero le convenzioni internazionali. Eppure ormai quando si parla di Lampedusa, quando si parla di sbarchi di disperati, c'è come un'insofferenza, c'è come una saturazione da parte del pubblico che non ne vuole sentire parlare. E allora meritori sono gli interventi in questo senso di Gian Antonio Stella, che sarà nostro ospite tra pochissimo, che ricorda quando i naufraghi eravamo noi. Le tragedie riportate sul Corriere, per esempio del 1906, riferite a dei naufragi terribili in cui persero la vita, in questo caso 292 italiani. Il primo senso di stupore si leggeva sul Corriere di allora, 1906, degenerò in un batter d'occhio, in un folle panico, producendo una confusione indescrivibile. I passeggeri, correndo all'impazzata e gridando disperatamente, rendevano impossibile l'opera di salvataggio. Sembrano righe scritte in questi giorni. A uno degli alberi del Sirio, questo è il nome della nave in questo caso, ma furono numerose le navi in cui gli italiani persero la vita, a uno degli alberi del Sirio si erano avvinghiati sei ragazzi, le cui madri si trovavano troppo lontano per poterli soccorrere, e le grida delle madri erano strazianti. Le ondate staccarono a uno quei ragazzi dall'albero, gettandoli in mare sotto gli sguardi delle povere madri impotenti a salvare le loro creature. Cronache di più di un secolo fa, eppure che ritornano oggi, cambia la nazionalità, ma l'aspirazione a una vita migliore è la stessa. Ne parleremo tra pochissimo alle 8:30 e poi andremo ad affrontare un'altra spaccatura, questa volta non politica, tra donne che hanno figli e donne che scelgono di non averne. Quindi non stiamo parlando di impossibilità alla maternità. Ebbene, questo dibattito sta impegnando decisamente l'opinione pubblica al di là dell'oceano e negli Stati Uniti, ma anche qui suscita delle reazioni senza figli e senza rimpianti. È un confronto un po' sul senso della famiglia da una parte, ma anche sull'ossessione di avere tutto per forza. La donna che vuole la carriera, vuole la realizzazione. Questa è almeno la provocazione del Time Magazine, viene sempre dagli Stati Uniti, ma ieri è stata ripresa anche dal New York Times, si trova sulle prime pagine dei quotidiani italiani, e vogliamo sapere da voi se si può semplicemente dire che la parola zitella con cui veniva, o perpetua con cui veniva additata una donna che scegliesse in maniera poco tradizionale, poco tradizionalista una volta, di non percorrere la via della famiglia, del matrimonio e dei figli, ma di fare altre scelte, oggi è finalmente libera di farlo senza sentirsi addosso il peso di chi la giudica. È un autolesionista, è un egoista, o è giusto ribellarsi alla maternità per forza? E di questo parleremo alle 9. Intanto i numeri di telefono 800 24 00 24 per raccogliere le vostre opinioni, i vostri spunti di vista, e l'SMS 349 238 6666. Ogni giorno impariamo a conoscere un inno diverso, e quello che sentite in sottofondo, Somos Libres, siamo liberi, dobbiamo esserlo sempre, del 1821, è del Perù. E saluto l'amico peruviano Roberto Neira Montoya, buongiorno. Buongiorno Irene, che bel regalo che mi fai, mi sarei aspettato di tutto tranne quell'inno nazionale peruviano, in piena estate romano o italiano. E Roberto Neira Montoya, lo ricordiamo, un giornalista di RPP, il radioprogramma del Perù, e qui ha lavorato, lavora tutt'oggi per diverse testate della RAI, hai una carriera molto articolata, molto difficile da riassumere, e per La Repubblica, anche hai lavorato in quel tentativo di dar voce all'immigrazione in Italia facendo parlare giornalisti stranieri. Un tentativo che si era realizzato con una testata che si chiamava Metropoli, un inserto molto seguito da tutte le comunità di immigrati in Italia. Un bel progetto, sì, quello dei Metropoli, che doveva raccontare tutte le sfumature che noi non conosciamo sul nuovo cittadino che vive in questo paese. Ma purtroppo, ahimè, come tutte le cose in Italia, le cose buone hanno una scadenza, purtroppo ebbe anche questo, è l'inserto di Metropoli che andava con Repubblica, il giornale quotidiano italiano. Tu hai detto raccontare in maniera approfondita, accurata, perché spesso sulla migrazione, come sai, permangono diversi cliché. Ora, quanti sono i peruviani in Italia? Allora, in Italia i peruviani che risiedono nello Stivali, insomma, sono più di 100.000, prevalentemente c'è la figura femminile in questa immigrazione. Loro sono venuti in circa, se non erro, tra gli anni 80 e 90, molto spesso sono andati a vivere nella Lombardia, nel Veneto, nel Lazio e nella Liguria. Loro, i peruviani più o meno, vivono in queste zone. In queste regioni ci sono le comunità più popolose. Il Perù, tra l'altro, è il quarto paese più popolato del Sud America. Quanti abitanti ha? Beh, lì entriamo in un paradosso. Il Perù è tre volte più grande dell'Italia. Sì. E paradossalmente la popolazione è la metà di quella italiana, cioè noi stiamo in circa i 25 milioni. Una piccola differenza, che sicuramente fa la differenza, è quella che il 70% della popolazione non supera i 40 anni. Insomma, questo è un popolo che sempre sta in sfide costante, è una popolazione millenaria, è un croiolio di razze diverse da più di 500 anni, è un paese che oggi, con la crescita economica dei paesi emergenti, al Perù lo vede nel terzo posto nella classifica dei paesi dell'America Latina con PIL che ha raggiunto il 6-7%. E dunque circa 30 milioni di abitanti, questo sì. PIL in crescita, e anche sull'immigrazione va registrato un dato in controtendenza rispetto a quanto succedeva anni fa, perché molti dei peruviani che vivono in Italia stanno tornando. Effettivamente, tornano nella loro patria, la patria quella che quando tu hai messo molto gentilmente l'inno, loro si alzano in piedi e la cantano orgogliosamente, tornano per raggiungere e per non togliere quel cordone umbilicale che molto spesso accade durante l'immigrazione, cioè ritornano a fare delle cose, delle esperienze che hanno avuto in questo caso in Italia. Noi abbiamo molti casi, ad esempio peruviani che sono tornati con la maestria degli italiani di fare scarpe, borse, e quindi addirittura c'è un peruviano qui, e questo l'ho raccontato molto spesso nelle cronache peruviane, che fino a poco fa faceva le scarpe sia a Benedetto XVI che a Carol Butilla. No? E vive quindi qui in Italia. Che vive qui in Italia, sì. Hai raccontato di questo imprenditore peruviano, perché spesso questo è un altro dei cliché, naturalmente, e delle etichette che si affibbiano molto frettolosamente a certe comunità, per cui le si include e le si sostituisce a un lavoro, per cui ormai anche dire filippino è diventato sinonimo di colf. Non c'è questa conoscenza delle nazionalità approfondita. dunque tu racconti dall'Italia quello che l'Italia fa e quello che i tuoi connazionali fanno in Italia, mettendo in evidenza anche le attività imprenditoriali che spesso sviluppano in questo paese. Quali sono altre tematiche che tu hai raccontato alla Radio Nazionale Peruviana? Quando parli dell'Italia, su quali argomenti ti spendi? Noi quello che c'è, per esempio, le cose che ci accomunano di più è una cosa molto interessante che poi in qualche maniera evitano delle conflittualità anche etnica tra gli oriundi, in questo caso tra la popolazione latinoamericana o piuttosto quella peruviana. Ad esempio, io ho riscoperto in questi lunghi 20 anni che ad esempio agli italiani piace molto la musica andina e caraibica. Questo fatto di piacere agli italiani la nostra musica rende più accogliente in qualche maniera, no? E ci unisce in qualche maniera in un cammino di convivenza, come per esempio un altro fatto è quello anche della religione, no? Che questi punti, sia la religione, che andare a ballare insieme, che ci unisce anche questo fatto della latinità, essere latini, evita nei confronti ad esempio di altre etnie con gli oriundi di questo paese dei conflitti come quelli che noi magari vediamo, che è quello del razzismo, eccetera, eccetera. Poi ci sono, ovviamente, questo senza dubbio, perché non è tutto quello che vediamo è oro, poi ci sono delle cose di cronica nera. Noi vediamo molto spesso che ci sono scontri con la polizia, anche perché noi, lo dico qua in maniera molto anche ludica, molto di formazione, noi proveniamo di un continente, no? Un continente molto violento, ma non è per colpa nostra, questo già dall'epoca della colonizzazione. Quindi questo retaglio, questo percorso, questo DNA un po' ce lo portiamo, come pure, raccontando le mie cronache verso il Perù dei peruviani, gli italiani dicevano che le donne sono molto mite, ci accogliono di più, vengono le nonnine vengono badate bene, con la cura dovuta. Quindi c'è pure questo altro aspetto del peruviano, no? Che è una persona molto affabile, una persona che ti sente, una persona molto mite, che non va tanto a litigare piuttosto a capire il problema. Quindi ci sono queste due medaglie della situazione. Ti soffermi su questi profili e su questi incroci e naturalmente su questi equivoci generati dalla convivenza. Nei tuoi racconti per il radioprogramma del Perù naturalmente ti viene chiesto anche dai connazionali che vengono invece in vacanza o in visita semplicemente in Italia di indicare quali sono i punti d'eccellenza o semplicemente sì, i posti più belli dove andare. E tu dove li indirizzi? Allora, io infatti allora molto spesso li racconto anche ai colleghi. Le dico sempre, guardate bene che io ho una fortuna, non dico enorme, ma immensamente grande, perché per recarmi al lavoro ogni giorno, vivendo a Roma, faccio questa strada tutti i santi giorni, penso che ho più fortuna. Quale strada? Di Quale strada? Quella di Piazza del Popolo, attraverso Piazza di Spagna. E prima di arrivare alla sala stampa estera, che l'abbiamo lì al centro di Roma, finiamo con Fontana di Trevi. Quindi in più in questo tragitto di cammino mi godo più di Roma gode più di 475 chiese intorno a Roma. Roma è la tappa che tu indichi in cima alla lista delle tue preferenze. Effettivamente. Grazie mille grazie per averci raccontato di questa tua permanenza in Italia da giornalista. Roberto Neiro Montoya, avete sentito la sua voce, è infatti il corrispondente del radioprogramma del Perù e ha lavorato per la Repubblica, attualmente per diverse testate della RAI. Noi torneremo tra pochissimo per parlare della nostra immigrazione di ieri, l'immigrazione di oggi a Lampedusa e dunque di corsi e ricorsi storici. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. I nostri nonni erano clandestini e l'80% degli italiani in Francia erano clandestini. Chi è stato in Nord America sa benissimo che i WAPS in America non avevano documenti, eppure in Italia la reazione è continuamente di fastidio, di invasione per questi clandestini, così vengono bollati semplicemente, che arrivano in nave. Abbiamo notato che intorno a quanto succede a Lampedusa molti vorrebbero così semplicemente tirare una cortina, chiudere, non sentirne parlare, come se fosse un problema della città di Lampedusa, che è stata candidata al premio Nobel per la pace. Di questo parleremo tra pochissimo con uno dei sostenitori di questa candidatura, il direttore dell'Avvenire, Marco Tarquinio, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E Lampedusa è in effetti un esempio di accoglienza e solidarietà, nonostante gli effetti negativi di continui sbarchi di profughi. E la proposta, partita dal quotidiano Avvenire, è stata accolta anche dall'Associazione della Stampa Estera Svedese, che ha ufficialmente candidato la cittadina siciliana. Ma perché noi italiani tendiamo invece a voltare la testa, a girare il volto dall'altra parte, quando abbiamo ricordato in apertura di trasmissione questo destino che oggi tocca a questi naufraghi, ha fatto parte della nostra storia, della storia dei nostri nonni. Abbiamo letto, grazie a quanto raccontato da Gian Antonio Stella e nel libro Lorda, quando i clandestini, quando gli albanesi anzi eravamo noi, e in diversi articoli le cronache del Corriere della Sera che parlavano di questi naufraghi, perché anche questo ci è toccato. Gian Antonio Stella, buongiorno, grazie per... ci è caduto in questo momento, sta scrivendo un libro e lo sappiamo che adesso è in questo momento è tornato. Gian Antonio Stella, il tuo impegno sul libro ti rende difficile anche tenere il cellulare con noi? No, è caduta la linea. Proprio non ha nulla a che fare con la tua attività di scrittore. No. Ma parlerai ancora di immigrazione anche nella prossima opera? No. Non ti chiedo niente né di anticipare nulla. Parlavamo di Papa Francesco, figlio di emigrati, come hai ricordato tu in alcuni dei tuoi saggi contro il razzismo, e per esempio Papa Francesco è stato uno di quelli che ha notato questa indifferenza degli italiani, da qui il suo invito a non voltare la testa. Perché secondo te c'è questa insofferenza verso questi racconti di immigrazione, questo dolore, queste tragedie, queste persone inghiottite dal mare che regolarmente arrivano dal Mediterraneo, e sembra quasi che l'italiano non ne voglia sentir parlare? Secondo me di fondo c'è lo stesso motivo che spingeva, non so, tanti industrialotti veneti a parlare quell'italiano finto, facendo invece che parlare il dialetto, a rifiutare il dialetto dei propri papà, delle proprie mamme, dei propri nonni. La stessa cosa è successa un po' in tutta Italia, anche dalla Sicilia ad altre parti, cioè si rifiuta il nostro passato azzerandolo e fingendo di avere un passato luminoso. È un'idea rovesciata rispetto a quella americana, ad esempio, no? Cioè in America uno dice: guardate, sono partito, lo dico perché è una frase fatta, con le pezze al culo, scuso la volgarità, però modo di dire, e adesso guardate, sono diventato ricco, sono diventato stimato, mi vogliono bene tutti, ho fatto un sacco di soldi, eccetera eccetera. Da noi no, da noi il passato viene cancellato, ed è poi il motivo, secondo me, che ci impedisce anche andare avanti. Cioè noi resettiamo ogni giorno la nostra vita ed è un atteggiamento assolutamente sbagliato in tutti i campi, in particolare in questo caso in quello dell'immigrazione. Ma nelle scuole si è messo mano varie volte ai programmi scolastici. Ieri parlavamo anche della sparizione della geografia o comunque della svalutazione della geografia. Nelle scuole anche non si parla, per esempio, delle tragedie che hanno caratterizzato l'immigrazione italiana, che potrebbero costituire un punto di contatto con quello che viviamo oggi. Tu hai ricordato diversi naufragi, abbiamo parlato questa mattina della sera del 4 agosto del 1906 in Spagna, quando a Cartagena si trovò un lattante tutto fasciato ed era vivo, miracolosamente vivo. E perché questo era un miracolo? Perché praticamente era forse l'unico sopravvissuto di un tragico naufragio in cui moltissimi, 292 poveretti, in gran parte italiani, persero la vita. Dove stavano andando? Quali erano? Ufficiali. In realtà, siccome molti viaggiavano clandestini, clandestinamente, anche allora i morti del Sirio furono probabilmente intorno ai 500, solo che le assicurazioni si rifiutarono di pagare, perché anche allora, insomma, era esattamente come oggi, gli armatori facevano i loro interessi, ma oltre al Sirio sono affondate, non so, il principessa Mafalda, che era diretto proprio in Argentina, da dove viene Papa Francesco, l'Utopia, che affondò nel Golfo di Gibilterra, il Bourgogne, che era una nave francese però carica di tutti italiani, che affondò davanti alle coste canadesi. Insomma, sono stati talmente tanti che è inutile fare l'elenco. Quello che tu dicevi all'inizio, però, volevo andarlo a riprendere, cioè, non solo nelle scuole non si studia questo, ed è davvero un peccato, ma viene raccontata una storia dell'emigrazione ridicola. Faccio un solo esempio: qualche anno fa l'assessore alla cultura e all'identità veneta fece fare un libricino sulla storia dei Veneti, si chiamava Noi Veneti, dove c'erano delle intere pagine dedicate ai 58 modi in cui si può dire la parola coccinella nei diversi dialetti veronesi. E poi non si nominava mai non solo Tiziano o Albinoni, Vivaldi o che ne so, Tiepolo o i grandi scrittori veneti, ma non si nominava neppure l'immigrazione, tranne sei righe, dico sei, con un mediocre disegnetto che parlava solo dell'immigrazione di Veneti verso il Brasile. E questo la dice lunga sul fatto che perfino chi potrebbe cavalcare l'epopea dell'emigrazione veneta non la cavalca per eccesso di ignoranza. E questa ignoranza della nostra immigrazione è totale, purtroppo va dal nord al sud. E poi porta a questi atteggiamenti di totale chiusura e di fastidio, quasi si parlasse di storie che agli italiani non appartengono. E immancabilmente scusate, ci sono queste reazioni. Posso sottolineare un piccolo dettaglio? Allora, io avevo dato come titolo di ripresa al libro su questi temi, che si chiamava Lorda, il titolo Quando gli albanesi eravamo noi. Se io lo dovessi riscrivere oggi, dovrei cambiare quel sottotitolo, perché come tutti gli italiani sono costretti a notare, la comunità albanese, che all'inizio aveva spaventato... Sì, era sinonimo di criminale, ladro. Ricordo che lo slogan con cui fu eletto Formentini fu... ogni voto a Formentini, un albanese in meno a Milano. Ecco, oggi possiamo dire che gli albanesi sono una comunità che si è sentita molto meglio di altre, non si sente più parlare di albanesi. Certo. Su quel versante, insomma, per l'emigrazione ci vuole un pizzico di pazienza. Di pazienza, la perché... stessa che hanno avuto gli altri con noi. Con noi, perché anche noi riempivamo le carceri negli Stati Uniti e non solo. Ma tra poco ci torniamo, Gian Antonio, perché ci sono già ascoltatori che vogliono sottoporti delle osservazioni. Francesco, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì. Io volevo esprimere no, si sa pure in mezzo. Guardi, Francesco, ci dispiace, ma non riusciamo proprio a sentire con questo tipo di linea. Provi a rifare il numero. Paola, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da Genova, ci dica. Ecco, io dico questo, cioè, che noi, anche se siamo andati all'estero, io riconosco questa cosa con i vari barconi e le varie valigie di cartone. Proprio da Genova si arrivava, tra l'altro, da tutta Italia, e partivano queste navi. Benissimo, ecco, però non trovo giusto che adesso ci dobbiamo prendere la responsabilità che tutti quelli che vengono li dobbiamo tenere. Cioè, vediamo che è un paese che ha lo sfascio. Gente, lavoro non ce n'è, persone che si sono dati fuoco perché non sanno come andare avanti, come possiamo prenderci carico di questo? Questo è il primo quesito. Il secondo, si avalla un sistema di delinquenza di questi scafisti che portano avanti, cioè portano, diciamo, in Italia queste persone qua, che peraltro pagano anche un bel biglietto, io presumo. Sì, sì, decisamente, ecco. Sostanzioso. Grazie ecco. A Paola, 800 24 00 24. Allora, Gian Antonio Stella, tu sei abituato di solito, dopo la pubblicazione dei tuoi articoli, a ricevere, in parte marginale naturalmente, però intanto li ricevi, insulti di molte persone che ti invitano a portarteli a casa tua, questi emigranti di cui difendi il diritto. Sì, ma su questo punto della signora vorrei sottolineare una cosa, che la sfido a trovare una sola riga in cui io o altri che fanno alcuni sottolineo alcune cose hanno scritto porte libere, tana libera a tutti, assolutamente sì. No, io non sono per l'apertura scriteriata delle frontiere a tutti, anche perché il rischio sarebbe altissimo, e cioè per la posizione che noi abbiamo nel Mediterraneo, per motivi storici e anche di gestione della criminalità organizzata, noi non saremo assolutamente in grado di contenere delle ondate enormi di popolazioni che venissero sulle nostre coste, per cui poi il risultato finale sarebbe una reazione razzista così violenta che è molto meglio che di questo tema e di frenare l'immigrazione si facciano carico gli antirazzisti, in modo da non lasciare poi lo spazio ai razzisti. E invece tante volte questo lo dice persino un uomo santo come Enzo Bianchi, padre Enzo Bianchi, cioè purtroppo, lui essendo cristiano dice purtroppo, se purtroppo non ci facciamo carico di tutti. Sottolineo che neanche Papa Francesco a Lampedusa ha detto che bisogna farci carico di tutti quelli che arrivano, non l'ha detto neanche lui, ma questo è ovvio. Però quello che dice su questo punto, io sono assolutamente d'accordo con la signora che ha telefonato, sono meno d'accordo, assolutamente meno d'accordo, sul fatto che siccome qui c'è tanta disoccupazione loro rubano il lavoro, perché se intanto perché molti emigranti se ne sono andati proprio perché non c'è lavoro, e quindi ci sono delle regole di compensazione proprio in questo settore che sono classiche in tutte le emigrazioni. E poi il secondo punto è che gli immigrati in Italia sono arrivati a rappresentare al massimo il 7% della popolazione, producendo l'11,2% del PIL, cioè ci hanno arricchiti, piaccia o non piaccia, loro producono più di quanto ricevano, piaccia o non piaccia, e questi sono numeri che non sono miei, sono numeri di Confindustria, sono numeri del Sole 24 Ore, sono numeri di chi si occupa di economia. Eppure è molto facile fare confusione spesso, perché come dici tu, il tema dell'immigrazione non viene gestito, c'è stato quasi una remora da parte di certe aree, come a lei definite antirazziste, a porre delle regole, a parlare di regolamentazione, di conseguenza il tema è stato dato in pasto a quelle frange della società che invece il razzismo lo cavalcano. E come? Un'ultima domanda, Gian Antonio Stella, perché veramente in 30 secondi. Lo ha messo anche Maroni, eh? Si parla in questi giorni di Ius Soli. Sì, no, qual è la tua opinione in 30 secondi? E poi ti lasciamo andare al tuo prossimo libro. La mia opinione è che il ministro Kang, non ho ancora capito bene neanch'io come si pronunci nella sua lingua, ha commesso un errore iniziale enorme e grave dovuto alla mancanza di esperienza, e cioè ha parlato di ius soli senza precisare che stiamo parlando di uno ius soli temperato alla tedesca, dove non diventi automaticamente italiano se nasci qua, sennò tutte ma dopo un certo percorso. Questa regola qua è una regola che è stata adottata in maniera ottima da larga parte dei paesi che hanno abbandonato lo ius sanguinis puro, sì, del passato, perché non ha senso, non ha nessun senso. Noi tiriamo su dei ragazzi che chiedono solo di essere italiani, che fanno il tifo per squadre italiane, che conoscono Garibaldi e non gli eroi, e sanno pochissimo del paese dei padri, e devono diventare cittadini. Per diventare buoni cittadini devono diventare cittadini. È impossibile diventare buoni cittadini se non si è cittadini. Grazie a Gian Antonio Stella. Noi ci ritroviamo tra poco, andiamo però prima sulle strade d'Italia a controllare la situazione del traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. C'è uno che guarda avanti e com'è duro stare in tanti sulla barca del futuro. Viene via dal sud vento contro. Beh, molto pittoresco, decisamente romantico, questo testo di Claudio Baglioni, si intitola Isole del Sud, ed è proprio una canzone che il cantautore italiano ha voluto scrivere su Lampedusa, perché l'ha impressionato la solidarietà di quest'isola, di queste persone che si trovano lì ogni giorno in prima linea a cogliere soprattutto. Ed è un canto che è dedicato al tema dell'eterno migrare dell'uomo, perché ormai oggi 2013 nascere, crescere e morire nella stessa terra è quasi un privilegio, chi lo sa, comunque una caratteristica di pochi. È molto più facile, anche se vieni da un paese sviluppato, che i casi della vita, del lavoro, della professione, quando sei fortunato, della fame, delle guerre, delle persecuzioni, quando lo sei meno, ti porteranno in un posto diverso da dove sei nato. Si è sempre parlato di Lampedusa, ma qualcuno ha fatto un passo oltre, ha candidato Lampedusa al premio Nobel per la pace. Il direttore d'Avvenire, Marco Tarquinio, ci può spiegare perché. Le rinnovo il mio buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno. Interessanti le cose che sono state dette. Siamo un popolo di migranti, ma siamo anche un popolo di gente abituata a confrontarsi con quelli che arrivano sulle nostre coste. A volte nei secoli abbiamo fatto la guerra, molte o più volte ci siamo incontrati con quelli che arrivavano. La gente di mare sa quali sono le regole della solidarietà. Io vorrei partire da un dato, però. La gente di mare, è bella questa sottolineatura, forse ha ragione. La gente di mare conosce le regole della solidarietà, perché non si guarda in faccia a nazionalità. Tutti i giorni sulle nostre navi, la nostra marina mercantile e militare, lo dimostrano appunto gli abitanti di Lampedusa al massimo grado. Però vorrei dire una cosa intanto. L'anno 2012, anno pieno di crisi, si è chiuso con un saldo dell'immigrazione di più 334.000 immigrati nel nostro paese rispetto all'anno precedente, un 8,2% in più, sono dati ufficiali dell'Istat, ci sono anche tante leggende metropolitane. Noi continuiamo a chiamare e reclamare manodopera straniera nel nostro paese perché ne abbiamo bisogno pure in un tempo di crisi. Questo teniamolo presente, 334.000 persone in più non sono arrivate sulle coste della nostra Italia. Non sono arrivate via barca. Sono arrivati in aereo, sono arrivati in treno, sono arrivati con i pullman. Eppure un'immagine forte che impressiona l'immaginario collettivo, appunto, è quella di questi sbarchi. Una volta erano quelli degli albanesi sulle coste della Puglia. Gli sbarchi impressionano perché sono la punta dell'iceberg, o se vogliamo sono la parte sanguinante dell'emigrazione, per la massima parte, non tutta, ma la massima parte delle persone che arrivano via mare sono persone che sono disperatamente in fuga da guerre, in fuga da persecuzioni, in fuga da discriminazioni pesanti, in fuga da crisi, una crisi economica. Noi viviamo per la parte del nord del mondo e loro vivono per la parte del sud, per intenderci quella delle speculazioni sulle materie prime alimentari, che secondo la FAO nel 2012 ha fatto 44 milioni di vittime in più. Ecco, e c'è una differenza anche tra immigrato, diciamo così, e rifugiato e la richiesta d'asilo politico. Tra l'altro l'Italia non è assolutamente in testa alla classifica dei paesi europei che accolgono il maggior numero di rifugiati, perché tanti altri paesi in Europa ne accolgono 4-5 volte tanti ogni anno, nonostante... Da noi è difficile tutto, diventare rifugiati come diventare cittadini, anche con le leggi vigenti, che dopo 10 anni darebbero diritto alla cittadinanza per chi vive nelle regole, facendo tutto come si deve nel nostro paese. Lo scopriamo ogni tanto quando qualche volto noto come Balotelli, come altri, faticano a prendere il passaporto italiano pur essendo italiani a tutti gli effetti. Ecco, io credo però che il punto che mi premeva dire, che mi vorrei che mettessimo un pochino a fuoco bene, è che siamo riusciti in questi anni a superare una fase drammatica che era stata quella dei respingimenti in mare. L'Italia ha firmato tutte le convenzioni sui profughi, sui rifugiati, possibili e immaginabili, ha fatte proprie leggi, però le violava. Nel momento in cui noi abbiamo fatto dei respingimenti in mare, senza guardare in faccia chi stava arrivando, abbiamo violato le leggi che ci siamo dati. Respingimenti collettivi, poi respingimenti collettivi che sono assolutamente illegali. Punto, bisogna guardare in faccia le persone che arrivano e capire che cosa sta, quello che abbiamo ricominciato a fare, grazie a Dio e agli uomini, alle donne che ci lavorano sopra alla cosa, perché ci sono persone che hanno titolo per essere accolti, perché sono in condizioni tali che se non vengono accolti possono solo o morire o finire vittime di altre violenze. Il caso più emblematico è la lunga inchiesta che avveniva condotto 2 anni fa sugli eritrei respinti in mare dall'Italia e finiti schiavizzati, depredati degli organi, con le donne violentate, riscattati dai compatrioti che sono già in Europa a fatica e anche da una raccolta che abbiamo promosso noi nel deserto del Sinai, nelle mani di predoni beduini di quell'area. Ecco, se fossero nati in quelle terre, in questa situazione con la dittatura eritrea, anche i razzisti, coloro che invocano i respingimenti collettivi e che anzi aumentano, probabilmente sarebbero emigrati, sarebbero su un barcone. Io mi auguro che siano sempre meno quelli che osano invocare una pratica di questo tipo. Sentiamo un po'. Quello che mi colpisce, è una cosa che vorrei dire con una qualche forza, è che in questi anni siamo stati capaci di fare una guerra con la Libia, ma non siamo stati capaci, come Europa e i suoi alleati, Stati Uniti compresi, a creare dei campi dell'ACNUR, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, su quella costa africana dove una prima selezione delle persone che arrivano dall'Africa subsahariana e da altre situazioni di crisi fosse fatta in maniera degna, umana. E non date in pasto agli scafisti. E rimanga con noi. Dovremmo riflettere anche su questo, su cosa l'Europa è in grado di fare. L'Europa poi, giustamente in queste ore, sta pressando Malta perché sta rifiutando 102 persone che sono state salvate in mare e le tiene bloccate la propria frontiera marittima e non vuole sapere di accoglierle sull'isola, nonostante gli appelli di Papa Francesco sono stati sì, e ieri della commissaria europea alle questioni interne Cecilia Malmström, che ha sottolineato con forza, anche insolita, la questione più importante è salvare le vite, e continua a esortare Malta, la smette insomma con la disputa sul coinvolgimento d'Italia e Libia, per ora prima di tutto salviamo queste persone. Questa la nota forte che arriva dall'Europa. Direttore, rimanga con noi, ora sentiamo anche alcuni degli ascoltatori che attendono di dire la propria e continueremo a parlare di Lampedusa. Vogliamo capire se secondo voi merita il premio Nobel. Devo invitare un po' tutti alla sintesi. Oreste, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Pronto, dica Oreste. Lei da dove chiama, scusi? Allora, da Livorno. Da Livorno. Allora, volevo dire una semplice cosa. Praticamente i nostri nonni, è vero che andavano in paesi come ora fanno tutti gli extracomunitari, però erano paesi in espansione, dove c'erano possibilità lavorative. L'Italia a questo punto qui non è un paese che ha possibilità lavorative, quindi bisogna, non è possibile ammettere un accesso indiscriminato. Bisogna creare una mail, un numero verde, dove tutte le ditte che hanno bisogno di lavoratori dicono: abbiamo bisogno di 1000 lavoratori a Trento, e fanno entrare persone controllate, strettamente controllate. E poi voglio che qualcuno mi spieghi come mai in Grecia, se gli albanesi passano il confine, gli sparano. In Spagna, se i marocchini vanno di là, gli sparano. L'Italia deve essere sempre pronta a cogliere tutti. Non è proprio così, però è chiaro che è un argomento che si presta a molte, diciamo, banalizzazioni. E riguardo al flusso, alle necessità delle industrie, anche del Veneto, sono state citate queste, ma un po' in tutta Italia nessuno ha mai parlato di accesso indiscriminato. Continueremo con le vostre voci e con una fotografia di quanto sta succedendo a Lampedusa e nella zona immigrazione tra poco. Prima però gli aggiornamenti con le notizie. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ancora un saluto, 8 minuti dopo le 9 e stiamo per concludere, ma ci sono alcuni aspetti che vanno chiariti per quel che riguarda i naufragi, per quel che riguarda i barconi, come vengono liquidati, Lampedusa e questo senso di invasione che prende il pubblico italiano. Il Duce aveva deciso di abolire le cattive notizie e anche in caso di naufragi di queste navi in cui morivano, per esempio 657 morti, stiamo parlando dell'ultimo caso citato con Gian Antonio Stella al largo di Buenos Aires, in cui morirono italiani che stavano andando in Argentina. Il Clarín aveva contato 657 morti e il Corriere dovette scrivere sotto le bastonate del regime che le vittime erano poche decine, perché la linea era dettata dal Minkul Pop, e senza dubbio anche questa censura in quegli anni ha contribuito al dimenticare alcuni fattori fondamentali di quell'emigrazione nostra che viene sempre ricordata come ottima, solerte, di persone che volevano solo lavorare. Quando gli albanesi eravamo noi, ci linciavano come ladri di posti di lavoro, proprio come facciamo oggi. Ci consideravano non visibilmente negri, ma di fatto così, questo nelle sentenze dell'Alabama. Ci accusavano di essere tutti criminali, noi italiani, rinfacciandoci di rappresentare quasi la metà dei detenuti stranieri di New York. Lo si legge nei documenti che Gian Antonio Stella ha pubblicato nell'Orda e in diversi altri articoli, perché è uno dei pochi che continua a cercare di far luce su quella pagina della nostra storia che chissà perché è ostinatamente chiusa. Con noi oggi il direttore d'Avvenire, anche Marco Tarquinio, che ha chiarito alcuni punti, ma dobbiamo tornare a parlare del Nobel, della proposta di Nobel a Lampedusa, perché non è qualcosa di teorico. Quali sono i passi per una candidatura ufficiale e a che punto siamo? Nobel all'accoglienza, Nobel alla pace naturalmente, ma che celebra l'accoglienza degli abitanti di quest'isola. Direttore Tarquinio. Intanto diciamo che la candidatura è stata posta ufficialmente, a me dispiace che non sia stato fatto da un'istituzione, da un'organizzazione italiana, ma dall'associazione stampa estera svedese, che ha raccolto un voluminoso dossier con tutti gli articoli che sono usciti e gran parte dei reportage che abbiamo realizzato in questi anni noi di Avvenire. Noi ci siamo limitati a riproporre la questione. Voi avete fatto sentire una canzone di Claudio Baglioni, che da molti anni organizza questo evento spettacolo a Lampedusa, si chiama Oshà, questa parola che parla a molte persone e in molte lingue, ed evoca il respiro vitale. È stato tra i primi a evocare la possibilità di un premio Nobel per la pace a lampedusani. Poi accadde che nel marzo del 2011 una signora veneziana, Michela Marchiotti, mi scrisse una lettera molto bella e io risposi sul giornale, la rubrica che tengo tutti i giorni, caldeggiando la proposta della candidatura che questa signora veneziana riproponeva. Il giorno stesso in cui uscì questa nostra cosa, il giorno dopo, diciamo quando eravamo in edicola, l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, in visita a Lampedusa, ritenne di rilanciare la cosa. Detta da Berlusconi, la cosa morì subito praticamente, nel senso che nessuno diede seguito alla questione. Ma dopo, invece è significativo che sia trasversale, è significativo che la richiesta di riconoscimento ai meriti della popolazione di quest'isola sia trasversale. Ecco, quello che siamo riusciti a realizzare nelle scorse settimane, in due settimane di interviste sistematiche a diversi esponenti politici, ad avere voci di tutte le forze politiche italiane favorevoli a questa iniziativa. Mi dispiace, ripeto, che a cominciare da quello del Presidente del Senato, la seconda carica della Repubblica, Piero Grasso, che è un uomo che fra l'altro da Procuratore Nazionale Antimafia si è occupato per gli aspetti criminali legati al traffico di esseri umani. Ma la cosa importante, noi abbiamo cercato di riproporre lo sguardo su quello che accade a Lampedusa dalla parte dei lampedusani, che sono un popolo straordinario, come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, perché sono capaci di un'accoglienza non retorica, vera. Io dico sempre un particolare sottolineo di questo tipo di accoglienza. È facile dire si dà da mangiare e da bere a una persona, ma è una cosa diversa, immaginiamolo. Aprire la propria casa e consentire a 20-30 persone di entrare, di lavarsi, di andare nel bagno della propria famiglia, ecco, questo è il tipo di accoglienza e di disponibilità umana rispetto a una disperazione concreta. Che tutti i giorni si può raccogliere a Lampedusa. Bisogna però andare oltre la gestione dell'emergenza. E lo sottolineano in molti, non solo in Europa. Saluto e ringrazio per il suo tempo il professor Fulvio Vassallo, paleologo. Buongiorno. Buongiorno. Lei è docente di diritto di asilo e statuto costituzionale dello straniero all'Università di Palermo. E sì. Cosa sarebbe necessario fare perché, al di là dell'innegata, innegabile generosità dei lampedusani, ci sia una gestione organica, sistematica di questo fenomeno dell'approdo? Consapevolezza che il problema non è solo Lampedusa. Consapevolezza che il problema per esempio sono i trasporti da Lampedusa, perché se a Lampedusa eccezionalmente in una settimana arrivano 1300 persone, basterebbe un aereo per trasferire queste persone verso centri di seconda accoglienza in tutta Italia e non solo in Sicilia come avviene attualmente. Quindi una gestione dell'accoglienza che di fatto non esiste potrebbe svuotare il problema. Diffondere informazioni basilari come quella per esempio che una cosa è il migrante economico che arriva in Italia solo per lavoro e vediamo come il mercato preferisce il clandestino perché è più economico rispetto all'immigrato regolare, anche perché hanno bloccato da 2 anni i decreti flussi per l'ingresso legale, quindi l'unica via d'ingresso per chi deve lavorare in Italia ormai è il lavoro irregolare, e poi c'è tutto l'aspetto del lavoro di chi viene dall'est, dall'Europa comunitaria, dalla Romania, dalla Bulgaria, da questi paesi, che sono una parte importante di immigrazione ed immigrazione comunitaria, sulla quale si dice pochissimo. La distinzione, diceva, tra immigrato economico? È richiedente asilo, perché se noi guardiamo le statistiche diffuse anche da Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, vediamo che c'è un crollo delle richieste di asilo in Europa, un calo degli arrivi via mare da 140.000 nel 2011 a 72.000, la metà nel 2012, e una diminuzione di immigrati dalla Tunisia, in Italia 28.000 nel 2011, 2.000 appena nel 2012, abbiamo visto fino a ieri sera quello che succede a Tunisi comunque, e invece c'è un aumento di immigrati che provengono dalla Somalia, dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iraq, paesi verso i quali non si può respingere, non si può respingere perché lo vieta la nostra Costituzione, non si può respingere perché lo vietano le convenzioni internazionali, e parliamo però di un numero molto basso di persone, perché l'Italia in Europa diamo qualche cifra comparativa in maniera tale da contestualizzare questo fenomeno. In Italia possiamo avere mediamente negli ultimi anni 15.000 richieste di asilo contro 45-50.000 di Francia e Germania, per esempio, e dalla Somalia possono arrivare 3.400 persone in un anno, e dalla Siria ne abbiamo avuti forse 1.000-1.500 in tutto questo anno, e complessivamente le cifre sono in calo fino ad aprile, ci sono un rialzo certamente nei mesi estivi. Insisto, non solo su Lampedusa ma anche su Siracusa e sulla costa della Sicilia sudorientale, ma un paese grande come l'Italia, con dei budget anche di fonte comunitaria in materia di accoglienza di richiedenti asilo, avrebbe il dovere di strutturare un sistema di accoglienza che eviti quel palcoscenico poi dello sbarco di massa che è diventato Lampedusa. Grazie, grazie al professor Fulvio Vassallo Paleologo, grazie a Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore del Corriere della Sera, grazie al direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio e a tutti voi per aver contribuito a sfatare alcuni miti. Sette minuti dopo le 9, cambiamo pagina per scattare un'altra foto della società. Ci hanno aiutato gli Eurythmics a introdurre il tema, ci ha aiutato Peter Bescapè in regia con questa sua introduzione. Benedetta Acri e Luca Cremonese, gli autori di questa trasmissione. Vogliamo parlare di donne, dunque vogliamo parlare di società e vogliamo parlare di felicità senza figli. È possibile? Su questo si interrogano gli Stati Uniti, un interrogativo che rimbalza anche da questa parte, nel vecchio continente tradizionalmente più conservatore rispetto a certi temi, eppure non mancano gli interventi anche sulle prime pagine dei giornali. Oggi basta madri per forza, è giusto ribellarsi, ha preso la parola perfino Vittorio Feltri, che di solito si esprime su altri temi, per dire la sua. Rifiutare la maternità invece gli fa da contrappunto Anna Maria Bernardini De Pace, è autolesionismo, ma questi sono solo alcuni spunti. La realtà ce la danno ancora una volta le cifre. Se negli anni 90 le donne che a 40 anni non hanno figli sono raddoppiate, le motivazioni sono solo economiche o c'è anche un fattore di scelta, un fattore di cambio di mentalità, per cui la donna che oggi fa scelte diverse da quelle della famiglia, della maternità, non si sente il dito puntato, non si sente chiamare zitellona acida come succedeva fino a poco tempo fa, ma viceversa, a volte è guardata anche con invidia da quelle che hanno figli. Questa è la copertina del Time Magazine, si vedono una lei e una lui, in questo caso bianchi, sdraiati sulla spiaggia a godersi il sole, ci sono vignette, copertine in cui si notano persone che se ne vanno con le valigie, visibilmente soddisfatti, a imbarcarsi a un check-in di un aeroporto, e altre coppie che con faccia così un po' sconsolata spingono un passeggino e li guardano. È una divisione anche questa dei disegni e delle vignette un po' grossolana, ma spesso ci si è trovati a stare da una o dall'altra parte della barricata. Buongiorno intanto a Chiara Saraceno, benvenuta nella nostra trasmissione. Ma è cambiata veramente, lei che è sociologa e da anni osserva tutto ciò che avviene nella famiglia e dintorni e nell'individualità. È cambiata veramente la percezione, la consapevolezza delle donne rispetto a questo tema, o succedeva anche prima e stiamo così puntando i fari su qualcosa, su un dato ormai assodato? Ma in realtà questo dibattito c'è da qualche anno. Qualche anno fa è stato inventato addirittura il termine Dinky, per dire, adesso non mi ricordo più com'è l'acronimo, ma per dire appunto dual income no kids, cioè le coppie in cui entrambi lavorano non hanno figli, come fenomeno in crescita, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo. Quello che c'è di nuovo è che potendo scegliere se, quando, quanti figli fare, si può anche scegliere sia di averli quando, anche quando non si riesce, diciamo così, naturalmente, con tutta la fortuna delle tecniche di riproduzione assistita, e sia di non averli se non se ne sente il bisogno personale o perché non ci sta nella propria vita. Quindi è l'altra, come dire, è uno sviluppo della possibilità di scelta, che è anche una possibilità di scelta della persona che si vuole essere, quindi non è solo il fatto voglio o non voglio un figlio, ma che tipo di vita da adulta, che tipo di donna, anche di uomo, voglio essere. Grazie per aver detto anche di uomo, perché non è che il compito della ripopolazione del pianeta gravi semplicemente sulle donne, sono tantissime le coppie anche in Italia che insieme decidono di non avere figli, di percorrere altre strade. 800 24 00 24 per le vostre opinioni, oppure 349 238 6666 per i vostri SMS. Lei, professoressa Saraceno, è docente di sociologia della famiglia all'Università di Torino, quindi ha anche a che fare sempre con giovani studenti. Ha notato un cambiamento nelle nuove generazioni rispetto a questo tema? Sì, premesso che sono così vecchia che sono ormai in pensione, non, no, ma quello che si nota, ma anche dalle statistiche, è che si è spostata molto in avanti l'età al primo figlio. Le donne e gli uomini italiani sono tra i più vecchi a diventare genitori per la prima volta. Quindi già questo è un indizio che ha a che fare con le difficoltà economiche, ma non solo, ha a che fare con il fatto che si vuole, come dire, provarsi, sperimentare, non solo andare in vacanza come la vignetta che avete ricordato prima, ma investire nella propria occupazione e così via. E in particolare le donne sanno quanto sia importante stabilizzarsi nell'occupazione prima di avere un figlio. Quindi a volte questa aumento, cioè in parte l'aumento delle coppie senza figli è dovuto semplicemente a un fatto che c'è uno spostamento in avanti, quindi è più lunga la fase della vita adulta e anche della vita di coppia in cui si è senza figli. Secondo poi i dati ISTAT, tra l'altro, può diventare invece irreversibile. Certo, ma professoressa, secondo i dati ISTAT, la percentuale di minori con padre occupato e madre a casa è scesa al 28,7% l'ultima volta che si è rilevato. Cioè, in via d'estinzione anche quella figura della casalinga che si dedicava esclusivamente ai figli. Sì. Questo da un po', perché adesso questi dati sono molto, molto interessanti, questi ultimi, però è già da almeno una decina d'anni che la maggioranza relativa, ma non anche se non assoluta, dei bambini sotto i 3 anni ha la mamma occupata, con grandi differenze regionali. Quindi l'occupazione della madre, anche se la nostra società, in particolare quella italiana, mi riferisco, continua a ritenerla un'eccezione nella sua organizzazione pratica, è in realtà è un dato acquisito da parecchio. Modello di normalità, ecco, di un modello di normalità. Assolutamente. Allora, la donna che poi oggi decide di non avere figli, non solo per ragioni economiche, lo decide col compagno o da sola, è una persona egoista, è una scriteriata, è una persona la cui scelta va semplicemente rispettata? Sicuramente è un segmento in aumento della società. Sono infatti a 40 anni le donne senza figli oggi il doppio di quelle che erano semplicemente negli anni 90. Non stiamo parlando dell'inizio del secolo scorso. Io saluto e ringrazio anche Stefano Zamagni. Buongiorno e benvenuto, professore Zamagni. Buongiorno a tutti voi. Allora, due parole su di lei, autore del libro Famiglia e Lavoro e soprattutto un economista, direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia e presidente del comitato tecnico scientifico di questo osservatorio. Secondo lei, Zamagni, questo nuovo fenomeno delle donne che rivendicano il diritto a non avere figli, non perché vogliono ritardarli, semplicemente non ne vogliono avere, è un fenomeno di cui hanno ragione alcuni a preoccuparsi? Dunque, la copertina del settimanale Time, cui ha fatto seguito una serie di articoli, ovviamente ha la natura della provocazione intellettuale, il tipico sasso lanciato dallo stagno. Quindi, in quanto tale, va salutata anche con favore, a condizione che ne segua un dibattito di alto profilo e non banalizzato su quelle cose che si spesso. Il punto è questo. Un grande giurista americano di origine italiana, Guido Calabresi, fondatore della scuola di Yale, e diversi anni fa pubblicò un libro intitolato Tragic Choice, cioè scelte tragiche, e dice: le scelte tragiche sono quelle che si verificano quando una persona, uomo o donna che sia, è costretto a scegliere tra due opzioni, entrambe dotate di valore. E usò allora come caso esattamente quello di cui stiamo parlando, il problema cioè delle donne che non vogliono il figlio. E concludeva dicendo: una società che tra virgolette obbliga o anche solo incentiva una sua componente, in questo caso le donne, alle scelte tragiche, è una società poco civile, perché è una società che toglie la vera libertà di scelta. Quindi... perché la libertà di scelta, come ha insegnato Marty Sen, non consiste nel ridurre l'insieme delle opzioni, ma semmai nell'aumentarle. Professore, ci troviamo di fronte a una concezione diametralmente opposta. Professor Zamagni, scusi. Cerco di sintetizzare un passaggio importante di quanto lei ha detto. Lei parla di costrizione, quindi secondo lei sono ancora fattori economici, contingenti di realizzazione che costringerebbero la donna, in questo caso, a non avere figli. Quindi non è però un problema di costrizione economica in senso usuale, perché non è tanto la disponibilità del reddito, è l'organizzazione del lavoro. Cioè, non dimentichiamo che il Ford Taylorismo l'hanno inventato gli americani, certo, da noi, o altri. E allora loro sono rimasti Ford Tayloristi, ed è, non è per caso che la rivista americana Time debba sparare. Sarebbe meglio che dicessero qual è l'origine, perché il problema, ripeto, non è quello della disponibilità monetaria, ma di un'organizzazione del lavoro in senso ampio, quindi di imprese di tutti i tipi, aziende di tutti i tipi, non è family friendly, cioè non è amico della famiglia. Chiaro, che disincentiva, grazie all'organizzazione anche dei tempi. A volte obbliga, perché se noi vediamo come la gran parte delle nostre aziende organizza il processo produttivo, c'è da mettersi le mani nei capelli. E tutto questo avviene non in nome di una maggiore produttività, come qualcuno lascia intendere, al contrario, pese che adottano un'organizzazione non flessibile del lavoro nella direzione, come ho detto, sono anche quelle che innovano di meno, e poi siccome innovano di meno danno la colpa della loro difficoltà economico-finanziaria alla crisi o alla concorrenza emergente dai paesi come la Cina e l'India, quando invece è la diminuita capacità di innovazione che è legata, ripeto, al fatto che se le persone non sono soddisfatte e non sono aiutate a rendere complementare e non sostituire le scelte essenziali della loro vita, è ovvio che questo non si possa verificare. L'altro aspetto che va ricordato è ovviamente legato, questo a me personalmente ha dato fastidio, ma mai possibile che cosa le ha dato fastidio? È questo, che una rivista come Time americana debba sollevare questo problema con riferimento alle donne e basta, e non agli uomini, cioè, e non alla coppia, non alla società. Esatto, ma allora l'uomo, come dire, questa è una forma di, diciamo, di discriminazione subliminale molto già in partenza. Perché si viene a dire già in partenza che le donne sono di due categorie, le donne da figli e le donne da carriera. Però la stessa distinzione non si applica agli uomini, nessuno direbbe uomini da figli o che uomini che invece devono lavorare. Ecco allora perché dietro questa apparente apertura, in effetti, io noto che c'è veramente una chiusura molto pericolosa nei confronti della causa femminista. Sarebbe meglio che le nostre femministe aprissero un po' gli occhi e si concentrassero su questi aspetti. Grazie per questo stimolo anche a Stefano Zamagni, l'avete sentito, economista. 30 minuti dopo le 9, i vostri messaggi 349-238-6666 ci segnalano, come fa Mario da Genova, che l'istinto di maternità è insopprimibile. Decidere di non avere figli è peggio che comportarsi da animale, dice un altro ascoltatore. E c'è invece chi parla di difficoltà economica e poi ricorda però i nostri genitori che ci hanno partorito e cresciuto nel dopoguerra, ne avevano di ben diverse. Insomma, divisa anche la nostra platea, c'è chi sostiene la scelta, tra poco daremo voce, possibilità di esprimervi anche a voi che seguite questo dibattito da casa all'800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E allora lo ricordavano anche loro: dietro ogni grande uomo deve esserci una grande donna. Erano altri tempi, ora le cose sono cambiate e anche questo senso di chi è davanti sulla scena e di chi sta dietro a volte si è completamente ribaltato. Ora, non è solo il Time Magazine a essersi occupato di child free people, e anche nella scelta del linguaggio naturalmente c'è già una connotazione di valore. Una volta si parlava di childless, cioè di coloro che i figli non li potevano avere, e ora invece si parla di libertà dal figlio sulla copertina di questo magazine. Anche il New York Times ieri torna sul tema, lo analizza da un altro punto di vista, e cioè la possibilità di convivenza tra coppie con figli e coppie senza figli. Si può essere amici di coloro che non capiscono il tuo ritmo, di coloro che non capiscono che non puoi fare tardi per l'aperitivo di sera, che non puoi invitare tante persone quando hai il bambino da allattare, che non puoi capire tutta una serie di incombenze che ovviamente chi è singolo oppure in coppia senza figli non ha. Una tematica che divide e che racconta una società in continuo cambiamento. Angela, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Cerchiamo di dar voce a tutti. Qual è la sua esperienza, la sua osservazione, il suo spunto di vista, diciamo così, su questo tema? Beh, intanto grazie per aver spalancato le porte a questo argomento. Perché? Ce n'era bisogno, cioè voleva parlarne. Ho dimenticato, per esempio. Devo dire che, rispettando l'opinione di tutti, sì, in assoluto, premessa importante. La mia esperienza è stata quella di una mamma di 25 anni, sì. Ho avuto due figli, una bambina e un bambino, mi sono separata, ho divorziato, ho lavorato come una pazza per dare loro una vita dignitosa. Ogni tanto mi viene in mente la vignetta che lei ci ha illustrato. Cioè quelli che spingono il passeggino e guardano con invidia l'altra coppia, quella che va al check-in per imbarcarsi. Credo di averlo fatto molte volte. Però è anche vero che i genitori fanno volentieri questo tipo di rinuncia, si può parlare di questo, o di scelte per i propri figli. Ora, lei è mamma, per esempio, anch'io lo sono, ma sottolinea rispetto per le idee, le scelte di chiunque. Se la sente di dire questo, o pensa che chi ha scelto di non esserlo, madre o padre, sia un egoista? Assolutamente no. Ho amici che non hanno figli e rispetto la loro scelta, li vedo sereni e felici. Ma la mia esperienza, che oggi è di nonna, quindi tornando alla vignetta, ricordo che negli anni ci fu quello sguardo un po' così, tutti questi sacrifici per mantenere i ragazzi. Oggi sono nonna, ho questa meravigliosa bambina di 2 anni e mezzo che ho salutato adesso, e dico, valeva la pena di fare tutto. Grazie, grazie ad Angela. Francesco da Como, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, ho finalmente una voce anche maschile. Su questa emancipazione della donna o scelta egoistica della donna. Lei come la definirebbe? Ma io la penso in questa maniera, molto semplice. Una società che basa oggi tutto su valori tipo spread, economia, eccetera, al centro si mette l'interesse personale. E l'interesse personale, diciamo che rende più difficile prendersi a carico quello che sono le... Aspetta che spengo la radio perché... Quello che diventa il dare, il sacrificarsi. Ma con questo non voglio fare un discorso così morale. L'avere il figlio o no è un desiderio. Ma se dobbiamo metterlo su uno studio sociologico, io non sono un sociologo, ho fatto la terza media appunto, e vedo l'esperienza personale. Cioè lei figli ne ha? Ho una figlia, una splendida figlia di 9 anni, sono separato, faccio ancora il padre anche se non sono più un marito, è un impegno, diventa doppio perché come si sa noi siamo i nuovi poveri. Però è un impegno che dà delle soddisfazioni, ma non sì, è ma, una ma il questione... punto è questo, il punto è questo, ok, lei ha avuto queste soddisfazioni, ama i suoi figli più di ogni cosa sulla terra, è normale per noi genitori, ma rispetta coloro che fanno una scelta diversa, questo le stiamo chiedendo. Assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro. E non era così dato per scontato. Una volta si puntava il dito verso chi sceglieva strade che lo portassero lontano dal nucleo familiare. Alessandro, pronto? Buongiorno. Pronto? Senti, mi dito, l'abbiamo perso. Come avete sentito, ci sono delle questioni economiche legate anche al mantenimento del figlio. Sapete quanto costa crescere un figlio dalla nascita all'università? Fu conteggiato questa, tutte le spese nel 1965, ci volevano 20 milioni di lire. E oggi? Oggi, secondo quanto pubblicato da Amica, l'ultimo magazine in Italia questa volta che si è occupato di fare due conti e mettere in colonna due cifre, la spesa è circa di 300.000 euro per portare un figlio alla maggiore età. E tutto questo, un figlio, tutto questo stringando e risparmiando. Cioè, secondo un rapporto, se si tiene conto dei beni indispensabili, cioè di quelli di puro mantenimento, la spesa è di circa 317 euro al mese, casa, alimentazione, abbigliamento. Secondo me è una cifra al ribasso perché non include le spese di mutuo o di affitto. Ovviamente se si è da soli senza figli si vivrà sotto in situazioni più economiche. Ci sono poi i costi naturalmente per i primi 12 mesi di vita che lievitano ancora di più per l'incidenza e del latte artificiale, del pannolino e dei vestiti che vanno cambiati in continuazione e di strumenti e di arredamento dal seggiolone alla culla che incidono in percentuali decisamente rilevanti e ci sono poi, come ci segnalava questo signore separato, costi ancora maggiori per le coppie che di tetti devono averne due perché pur non essendo più coniugi continuano naturalmente a vedere e a occuparsi dei figli e questo comporta una spesa maggiore per chi ha il figlio in affidamento e per quello o quella che ha il diritto di visita. Barbara Serra da Londra, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Barbara Serra è una conduttrice, quindi anche inviato, è una giornalista, è una conduttrice di Al Jazeera e l'abbiamo scomodata a Londra perché la sua storia raccoglie un po' di tematiche che sottendono a questo cambio della società. Barbara, tu stessa sei nata in un posto, cresciuta in un altro e quindi sei portatrice di culture diverse e osservi anche nei paesi anglosassoni come ci si pone di fronte a questo tema della scelta di non fare figli, che è diverso dal non poterli avere. Molto, molto diverso qui credo dall'Italia, insomma ascoltando un po' certi dei commenti diciamo si è parlato molto della situazione economica. Io vivendo a Londra devo dire, vedendo io ho 38 anni perciò ovviamente tantissime delle mie amiche hanno già avuto figli e dei miei amici e delle famiglie, ma quelli che hanno scelto di non averli almeno nel mio ambiente non era necessariamente per ragioni economiche, per quello la copertina di Time Magazine con questa coppia sulla spiaggia ai Bahamas che si divertono non è in effetti non è la realtà che incontro qui. Io per me qui c'è tanta gente e sia amici femmine che maschi che a un certo punto verso i 30 anni si sono guardati allo specchio e hanno detto hey, sai, io non ho nessun desiderio di aver figli e almeno in Inghilterra quest'ora è un quinto della popolazione, perciò uno su cinque sceglie di non avere figli. E sinceramente, prima di tutto, considerando che ci sono 7 miliardi di persone al mondo, non c'è nessun bisogno per la gente ad avere figli. E secondo, sai, se uno non se la sente, l'ultima cosa che dovrebbe fare è diventare genitore. Già è difficile se hai il desiderio e già l'affetto a priori. Se non ce l'hai, non è che stai facendo un favore al tuo futuro figlio. E dunque senza figli e senza sensi di colpa, potremmo sintetizzare. E tu sì, a tua volta hai deciso di non averne? È una domanda molto personale. No, diciamo che non ho deciso di non averne e sono in una relazione e diciamo che ho 38 anni, perciò ci stiamo ancora pensando, però diciamo che ho fatto la pace con me stessa, non essendo più un pulcino di 28 anni, che se per una ragione non può succedere, non mi sento meno validata come donna. Ed è quella anche una differenza che ho notato molto con le mie amiche italiane, con le mie amiche italiane. Perché tu hai ancora contatti con amiche e persone che vivono in Italia, hai forse anche famiglia qui? Sì, tantissimo, cioè tantissimi amici italiani, sia a Milano dove sono nata che in Sardegna o Sicilia, dove ci sono insomma le mie famiglie di papà e di mamma. E noti una differenza? È molto più comune. Molto, cioè la differenza è che è molto più comune in Italia dire frasi del tipo, sai, una volta che sono diventata madre, sono madre prima di essere donna, perciò il diventare madre, l'essere madre è molto più parte dell'immagine della donna che non magari nel mondo anglosassone, e devo dire più di quanto sia importante l'idea di essere padre per un uomo, cioè è strano, non chiede, anche in un'intervista quando si fanno ai VIP, ai politici, è raro chiedere a un uomo lei è padre, mentre invece quando c'è un'intervista con una donna, quasi sempre viene sulla domanda della famiglia. Perciò in Italia è molto più chiave il ruolo della madre. E te l'ho appena chiesto io, mentre ti stavo intervistando, ma per la tematica che stiamo per la tematica che stiamo affrontando, non l'avrei mai fatto altrimenti. E quindi c'è chi dice è colpa del prezzo di culle, pannolini e simili, e è solo una questione economica, e c'è invece chi sottolinea: attenzione, siamo di fronte a un fenomeno nuovo, una consapevolezza nuova. Come tu sostieni, Barbara, sì, c'è una demografia che ci permette, tra l'altro, questa scelta, i figli li faccia chi li vuole fare, chi li consapevolmente sceglie quel percorso. Non c'è più quello stigma della società verso la donna che intraprende altre strade. È così? Non c'è veramente più? 800 24 00 24. Ora andiamo sulle strade, quelle vere d'Italia, con il traffico d'agosto a controllare la situazione, poi torneremo per le conclusioni. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 13.486 euro l'anno, più o meno questo il costo di un figlio, ma non può essere l'unico elemento in base al quale si decide o meno per un passo così importante, sia che si decida di non farlo o invece di mettere al mondo un altro essere umano. E sono moltissimi quelli che ci segnalano che invece il pregiudizio verso la donna, un'altra volta, non la coppia, la donna che non vuole figli rimane molto alto, perché basti pensare agli sms che ci arrivano dai nostri ascoltatori. Dunque il problema non è la motivazione economica, tant'è che le famiglie che hanno più figli sono quelle immigrate, e lo prova anche la nostra demografia. Il problema è che una donna che decide di non essere madre non è una vera donna. C'è anche chi ci dice tra i vostri sms che un uomo che decide di non essere padre non è un vero uomo. Barbara Serra, tu che sei giornalista, così, che incroci dentro la tua storia, la tua biografia, la cultura e italiana mediterranea e quella anglosassone perché vivi a Londra, e anche hai un osservatorio privilegiato sulla mentalità, sul mondo arabo, visto che lavori per Al Jazeera. Pensi che l'asticella dell'emancipazione delle donne si sia veramente alzata con questo incremento numerico di coloro che non hanno figli, o in realtà siamo ancora al punto di partenza? Guarda, non so se la descriverei come emancipazione femminile, e non so se descriverei questo come veramente un tema femminista. Abbiamo parlato dell'immigrazione. Quello che è molto interessante vedere è che alla fin fine nei paesi in via di sviluppo, i paesi arabi più poveri o soprattutto nell'Asia e in Africa, hanno grandi famiglie, perché i bambini poi diventano l'attenzione dei genitori, perciò si hanno anche grandi famiglie per ragioni economiche. Ed è sempre notato, soprattutto in Inghilterra dove siamo già alla seconda, terza generazione di immigrazione, che queste famiglie immigrate dopo la prima generazione non hanno più 7 figli, tornano nella media del paese dove sono, perciò le famiglie qui di seconda, terza generazione che magari venivano dall'Asia, comunque poi fanno solo, diciamo, i due bambini di media che si fanno qui in Inghilterra. Perciò la questione economica è importante. Prima c'era anche un bisogno economico di avere grandi famiglie per aiutare l'economia del paese e anche per sostenersi, insomma, era una pensione. Perciò credo che quello, insomma, stia cambiando nei paesi dove ci sono soldi occidentali sviluppati. Beh, mi fa un po' sorridere il commento che è arrivato per SMS che chi non ha figli non è un vero uomo o una vera donna. Cioè, è sempre interessante che chi sceglie di non avere figli, io non ho mai sentito qualcuno che sceglie di non avere figli che vada poi a fare storie a chi invece li ha scelti. Ci dovrebbe essere un rispetto reciproco, tu dici, anche perché sono però tanti coloro che, avendo scelto di non aver figli, stanchi di essere additati come traditori della causa umana, dicono attenzione a parlare di noi come egoisti, perché può essere un gesto egoista anche il mettere al mondo un figlio in questa società. E poi non è escluso che una pienezza di vita si possa realizzare, ha fatto notare qualcuno ieri sul Corriere, anche occupandosi dei figli degli altri. Ci sono persone, non solo insegnanti o educatrici, che in diversi ambiti, ci sono eccellenti zii e zie per esempio, si occupano dei figli altrui. È importante questo elemento che sottolinei tu, Barbara Serra, del rispetto delle scelte degli altri. Abbiamo... Sì, e credo che quello comunque sta cambiando anche in Italia, e però credo che anche c'è molto l'associazione con la carriera. E per me, sai, certa gente semplicemente non se la sente di avere figli e non li vuole avere. Cioè, credo che alla fin fine quello, e che ancora causa sorpresa, anche qui in Inghilterra a volte il tema dell'egoismo viene fuori come in America, perciò non è che qui non succede per niente, anzi ovviamente succede anche qui, però è un po' più pronunciato in Italia, però io credo che stia cambiando. Sentiamo invece come la pensate voi, abbiamo tanti uomini che affollano le nostre linee telefoniche, andiamo da Gilberto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, molto interessante la trasmissione, veramente. Lei di cosa si occupa, Gilberto? Io mi occupo di risorse umane. Finalmente. Ormai... Allora possiamo chiederle se lo stimolo che ci ha dato il professor Zamagni riguardo all'organizzazione del tempo, sì, sia forse l'elemento fondamentale che porta poi una donna, una coppia, a decidere se avere o meno figli. Io credo che la combinazione positiva tra tempo lavoro e tempo famiglia è uno dei grossi problemi di tutte le società. In Italia siamo totalmente arretrati e questo è una componente. Ma io volevo sollevare un'attenzione. La sollevi. Tantissimi anni di esperienza nei rapporti con collaboratori, dipendenti, relazioni personali, eccetera, ho visto che esiste una situazione femminile che non desidera e non sente il senso di maternità. Queste ragazze, è quasi blasfemo, oggi è accettato, ma fino a poco tempo fa era blasfemo un'ammissione di questo genere. Però in alcuni strati della popolazione, ancora adesso, vedo ragazze che sono tormentate dal fatto che loro non sentono la maternità. La convenzione sociale le obbliga ad avere il bambino, e questo diventa un disastro per loro, perché, come diceva il professore, se non si è soddisfatti poi sul lavoro o sul resto della vita non si combina niente di positivo, diventa un dramma per la coppia, perché si rivangano colpe che non esistono. E poi evidentemente tutto ricade sui figli, perché i figli sentono di non essere desiderati. E questa fortissima convenzione sociale, totalmente presente in Italia... Totalmente, lei dice, quindi non le sembra ancora, che sia cambiato nulla? No, sta cambiando per fortuna, ma perché le ragazze sono anche... Le giovani donne sono anche un po' più evolute in questo senso e riescono a contrabbattere, però nella massima parte delle situazioni cedono a questa convenzione sociale di suocere, zie, nonne, colleghe. A questa pressione lei dice i risultati. E poi nasce un disastro assoluto. I risultati potrebbero essere molto dolorosi o disastrosi per tutti coloro che sono coinvolti. Giacomo, sentiamo un'altra voce di un ascoltatore. Pronto? Giacomo, sì, buongiorno. Buongiorno, io sì. Ho 55 anni, sono cresciuto a Milano negli anni 60. La società in cui sono cresciuto io era una società che era in espansione, in una fase di sviluppo che pareva non avere fine. Le famiglie allora potevano permettersi di avere molti figli, dai 2 ai 5 o 6. Perché potevano permetterselo, secondo lei? Perché i posti di lavoro erano sicuri, perché gli stipendi, il potere d'acquisto era più elevato di quello che è adesso, perché non avevamo un debito pubblico di 2050 miliardi. E anche perché le aspettative probabilmente della vita erano diverse, non erano solo tematiche economiche. Io non sono d'accordo con lei, io vedo che lei tende a parlare di aperitivi o di aspettative o di senso di maternità. Io invece penso che sia, parlo dell'Italia, essenzialmente una questione economica. Io credo che con un debito pubblico di 2.050 miliardi di euro e un debito previdenziale di 3.700 di cui nessuno parla, che si convertono poi in una tassazione asfissiante per le famiglie, 70% a valle delle imposte indirette. Sì, sì, Giacomo, lei avrà ragione, tra l'altro lei avrà ragione su questo aspetto, e quello c'è innegabilmente, eppure ce lo segnalavano non solo questi interventi da oltreoceano, da oltre confine, ma anche qua in Italia, ce lo segnalano giovani che ci scrivono in continuazione, l'ultima è Veronica, continuano a chiedermi a quando fai un figlio, ma non ne ho nessuna intenzione, basta, c'è un elemento in più di scelta che non ha nulla a che vedere. Secondo lei questa è una scelta oppure inconsciamente è una risposta ad una, noi siamo ad una situazione insostenibile, noi siamo una cioè lei dice è inconsapevole, ma non è una scelta. Per alcune persone, per rarissimi casi, per alcuni casi che io rispetto pienamente, può essere una scelta che per carità, però tenga presente che noi siamo una società che è cresciuta inconsapevolmente, inconsciamente o più o meno consciamente con l'idea che i figli non si mettono al mondo per buttarli in mezzo a una strada. Si mettono al mondo per assicurare, cercare di costruire le condizioni perché loro possano avere un futuro prospero, un futuro dignitoso. Noi stiamo delegando la maternità a quelli che fanno 7-8 figli e poi li mettono in mezzo a una strada. Perché? Perché per questioni sociali, per questioni ataviche, che per carità storiche e quant'altro. Però noi che siamo. Quindi secondo lei, Giacomo, un intervento di carattere sociale in questo stato in cui moltissimi si riempiono la bocca con famiglia, poi che in realtà ha pochissimi interventi su quel segmento di sostegno alla famiglia, dal welfare al child benefit, tutte quegli interventi pratici che aiutano molto a risolvere le questioni quotidiane di una coppia che ha figli, se ci fossero degli interventi seri in quel settore probabilmente cambierebbe e non ci sarebbe nemmeno la necessità di discutere su questa questione dello scegliere, la scelta di non avere figli. Dico bene, Giacomo? No, io credo che lo Stato dovrebbe lasciarci in pace, lasciarci in tasca i soldi, sollevarci dal suo peso sostanzialmente inutile e lasciare e che scelte? La società ritrovi una prosperità e ritrovi un equilibrio. E queste scelte lasciarle al singolo individuo. Grazie per tutti i vostri interventi, una tendenza che si registra sempre di più se i numeri ce l'hanno confermato. Chiara Saraceno, grazie per il suo tempo, buona giornata anche a Barbara Serra, a tutti voi che siete intervenuti. Spunti di vista ritorna domani mattina alle 8:15.